Yeah. Sono Bippi, Bippi e Bu. Bippi, ma sei dormito. Non ti sento. Chi sei Gianni, chi sei? Non stai uscendo. A finire che ti tornano a chiudere, molto stretto. Ah, chi sei? Non ho capito. Come chi sono? Oh, ah, tu sei. Ho detto che va a finire che ti chiuderanno molto stretto. No. Stanno cercando di non farlo. Praticamente, a quanto stanno dicendo adesso nell'ultima ora, c'è anche su uno stage su internet, nella conferenza stampa regionale, stanno praticamente, dopo che chiudono i bar, alle 21, blackout totale, sino alle 5 del mattino, compresa anche il sabato e la domenica. Tra un comune e l'altro ci si può spostare ancora, sì. E non c'è nessuna ordinanza, ecco. Io non ho sentito nessuna ordinanza. Tra regione e regione penso di no, perché chiudono nuovamente, mi sa, i porti e gli aeroporti o fanno delle restrizioni particolari, però non c'è il blackout totale. Assolutamente, non si può fare qua, non si può fare, cioè veramente l'Italia in generale, non solo la Sardegna, ma qualcuno si ammazza, va a fondo, non si può. Io lo so, lo capisco benissimo, ma non ne usciamo più. Sì, qua, non ne usciamo più perché ci sono troppi contagi, così è che siamo il triplo di marzo in Sardegna, quindi vedi un po', non lo so. Ho sentito Antonello per telefono, se vuoi ti aggiorno al telefono qua, non ti dico niente. Sì, l'ho sentito anch'io adesso, mi ha detto che uno stava chiamando all'altro e non ricevate attenzione, già tutto. Yeah, positivo, va bene. Sto andando con 440, mi senti bene? Benissimo, e a me come mi senti? Una telefonata, benissimo, sei 9:10 quasi, radio 5 perfetta qua. Antonello mi ha detto che questa non è una voce molto grossa, non mi si riconosce. E all'inizio non ti stavo riconoscendo neanche io qua, perché c'era un bip a Sassa, non capisco chi era, però non stava uscendo di radio. Chi è che vuole entrare a Sassa? Avanti. Ciao! No, già, manchi di modulazione, infatti me l'ho immaginato, pensavo che era Marco, ma ho visto il segnale, quindi ho immaginato che eri tu. A tratti stai uscendo già. Aspetta, lì è che c'è Gianni Gottirum che ha problemi col microfono. Mi ero capito che era lui. Io, siccome il Bipi c'era in pochi assassari, ho visto il segnale e quindi ho capito che era lui, ho capito. Ho provato in 20, 40... In 80 c'era poca gente, però ottima, veramente ottima, molto molto presentabile, caspita, per essere adattata molto presentabile qua. Qui mi stai arrivando, 9 attenuato, io tengo attenuato perché c'è molto problema, se no non riesco a sentire bene. Ecco, sono con 20 watt di portante modulati 50, fate il conto, c'è una portante allucinante. Va bene. È rimasto un po' così Antonello quando ho detto guarda che c'ha anche la scatola, mi dico la radio. Dai scatola, non ha mai avuto il scatola di San Radio, ma lì ci verrà però. Ho tolto l'attenuazione, 9:20. Stai arrivando 9:20, secco. E tu sei 9:10 abbondante qua, evidentemente il lavoro dell'antenna che ha a porto porre 9:20 con 20 watt e 50 modulati. È tanto, vabbè che ci vediamo noi due perché tu sei molto in alto con l'ottorese. Io sull'antenna ho fatto un capolavoro qua, l'ho messo dove c'era il sistema delle direttive, capito? Adesso sono praticamente un elemento lati, quindi sono 2, 4, 6, prima era un elemento solo, quindi sono levata di 4 metri e ho agganciato il cavo, la camilla delle direttive, quindi c'è una recezione favolosa, meno QRM, più pulita e i cavi sono molto importanti. Io stavo, sono alla ricerca di un'antenna, ho visto un po' quelle che ci sono, senza salire molto di fretta, stavo guardando le iGain, la VQ18, oppure quella della Daimler, la TPR6, l'ultimo tipo, ma costa un fracco di dinaro. Poi vediamo se già mi ha messo a posto già. No, già all'inizio esci, ti ricordi, l'ha già fatto questo difetto, all'inizio esci e poi si abbassa la modulazione, se è l'MB più 5, stai attento che non sia quel difetto che faceva a me. No, già, allora, prova, guarda, me ne accorgo subito se è quello, ti dico cosa devi fare. Quando pigi il PTT, premilo forte, vediamo. Già, quello lì è lo stesso difetto del mio, uguale. Lo stesso difetto del mio, non arriva a fondo il PTT, quello che tu ogni tanto spruzzi, eccetera, non è quello il difetto. C'è quella farina di plastica, leggero, che pigia. Se tu lo apri, te ne accorgi, quello lo devi tagliare, lo devi togliere. Con la tronchesina lo devi tagliare già, perché sennò ti crea problemi. A me quello era, adesso è una cannonata. Ho tolto quello, l'ho rimasto bene, e il PTT scende fino a fondo. Dovevi aprire già, te lo metti a senso contrario, stai attento. Non c'è bisogno di smontarlo, di smontare quei pezzi che poi è un casino a metterli. Quando schiacci il PTT ti accorgi che c'è, non arriva fino a fondo. E toccami, tocca, c'è un pezzettino di plastica fine che devi toglierlo perché sennò ti crea quel problema. Io l'ho tolto, non me l'ha più fatto. Ora, quella della Daimo, la GP6, lasciala perdere perché è un'antenna di una cagata allucinante. Chi ce l'aveva l'ha fatta a pezzi, 250 euro d'antenna e non serve a niente, a nulla, capito, a niente. Vai sulla quelli della ProSystel, vai su quello delle Gale verticali, vai sulle verticali dell'Ultrabin, vai sulle verticali della PKW, c'è la PK6 che è molto molto bella, funzionante. Però ti ripeto, i prezzi sono quelli, non pensare che i prezzi sono da 250 a 500-600 euro le verticali, buone. Oh, stavo guardando sul forum di Ari Finezza, sezione Ari Finezza, lì consigliano molto quella iGain, la VQ, hanno detto che va molto bene. E adesso è uscita la nuova della Diamo, ma costano tutte dalle 3,50, è troppo. Adesso mi senti? Sì, è troppo, Claudio, è troppo, sì, già, vieni avanti. E adesso sono con la Static, guarda bene come va. Va bene, però se quello là sicuramente è lo stesso problema del mio già, lo stesso problema del mio. Perché ti ricordi che mi si abbassava la modulazione, così fai tu. Mamma mia, adesso tocca smontare tutto, dai. Continuate, buonasera anche all'altro amico. Ehi Claudio, la porto poi. Già, non devi fare niente, togli il coperchio di sotto, togli la batteria, ok? Senza togliere quegli affari che putti in casini. Tu schiacci il PTT, te lo giri al contrario e te lo metti in mezzo alle cosce, ok? Come ho fatto io. Schiacci il PTT e vedi che non fa il fine corsa tutto intero. C'è un piolino di plastica, piccolo, che tocca e non ti fa arrivare sino alla fine, non lo fa schiacciare bene. Quello lo devi togliere. Dai, continuate che mentre parlate lo fate. Controlla già, vai tranquillo che è quello, perché io proprio grazie a te che mi vedete si abbassava la modulazione, ho scoperto che cos'era, l'ho riprozzato di tutto e non venuto da là. Ho tolto quel pezzettino di plastica, adesso funziona che è una cannonata. Vai, Claudio. Sì. Vai benissimo Gianni, già ti sento abbastanza bene. E Claudio, hai mai sentito quelle della Prussia? Una ditta italiana, tutti dicono che vanno molto bene, sono fatte bene come costruzione, come materiali, però non lo so, io ho paura di prenderla in alluminio perché qui sto raccogliendo un sacco di mondetta. Non lo so come mai. Guarda, io ne sento parlare molto bene, non sono un verticalista, la verità, io ho sempre preferito molto di poli per l'altezza che ho, eccetera. Ho fatto la prova con le direttive e grazie a Dio l'ho recuperato in tempo perché l'ultimo maestrale che avevo fatto mi stava creando problemi. Ho resistito tantissimo proprio perché erano delle antenne molto molto robuste, capito? Quindi le ho recuperate, smontate, addirittura una già venduta, la 3 elementi della PKW venduta, mi è rimasta la 5 elementi per i 6 metri, che è conservata, dentro in mansarda, tutto ordinato, e le ho recuperate, ma verticale non le ho mai messo appunto per l'altezza, perché ho paura, bisogna controventarle, piegano troppo, eccetera. Però mi hanno parlato molto bene di quella della ProSister, molto molto bene. C'è qualche modello che si riesce a avere a buon prezzo. Io ho visto sul loro sito c'è il prezzo pieno, è abbastanza alto, ma quello di Next Radio mi ha detto tu guarda il modello che ti interessa, poi lo dici a me e io ti faccio il prezzo molto più alto. E in effetti 180 euro insomma si possono prendere. Sì, beh, è un prezzo molto, molto abbordabile, 180 euro per una verticale, 5 bande, eh? Sì, 3-5 di più, no, di più di 5 mi sembra che sia. Farà 10, 15, 20, 40, 80, sicuramente. Sicuramente, se quella lunga fa anche gli 80 metri e quindi è 5 bande, è abbordabilissimo il prezzo qua, ma poi la ProSister ha dei prezzi favolosi, mentre gli altri cazzo ti appendono, cioè non puoi comprare una verticale 5 bande e 600 euro, e che cazzo. Sì. Tipo la R9 della Custra, R9, ma non più dentro, vero? Ma c'è un maxi, o le booster non fanno parte, saranno buone, ma è troppo. Prendere quella della Ultra B verticale, vedrai quanto costa. Un patrimonio costa un patrimonio. Io ti ripeto, non mi sono mai orientato sulle verticali, ho sempre preferito di più. Io c'ho di più che fa 15, 20, 40 e 80, 4 bande che sono quelle che frequento insomma quando ne ho voglia, così che opero di più e mi va benissimo. Dopo le direttive io ho lasciato quel dipolo lì e va benissimo, quell'altezza dove ce l'ho io è una canonata, non ha niente da invidiare ad altre antenne, ti ripeto, proprio per l'altezza, perché andando a mettere una verticale da 11 metri solo l'antenna più 45 metri di altezza è una cosa che non va bene. Assolutamente, la spezza in due sono convinto al 100%, perché poi sono antenne che flettono tantissimo, capito, e non va. Ho capito, e tu figurati dove sono io qui di fronte a me, anch'io per problema, devo controventare abbastanza bene. Figurati che ho visto quella Mantova piegarsi qua in due, ho paura che si stava spezzando, ha tenuto, e meno male che ha tenuto, sto calcando 6 metri, ha tenuto. E non so quelle antenne lì che robustezza possono avere. Mi hanno detto controventare bene, non succede niente. Lo so, ma vai a mettere anelli, controventi, ci vogliono dei controventi in nylon leggero, oppure delle lenze particolari, oppure del Bicom fine, capito? È un lavoro sostegno la mantova tiene. Mai avuto problemi con la mantova, mai e poi mai. A dire ci è allentata, ci è nuba e mica ne prende il vento qua, mica. Ne prende un bel. Io le becce a maestrare, a levante, a ponente, li prendo tutti. Il becce è fortissimo, quando arriva ad Alghero raffica da 70-80 km orari, manco ci muove. Ecco perché l'ho messa dove adesso, proprio perché i pali sono, il piantone da 2,5 pollici, quindi sta fatto a muro, a piastra, con tirafondi da 16, a tascello chimico, quindi c'erano le direttive, c'era il piantone delle direttive, perciò ce n'era appeso, a voglia. Capito? Una volta che sta fatta bene, sai pur certo che problemi non te ne crea la mantova, non me l'ho piaciuto, può essere anche di fronte al mare, dove vuoi, però quelle hanno una particolarità che sono lavorate molto fini, capito? Hanno sì il piantone di sostegno un po' grosso, ma poi sono fini e alla fine quando le raffiche arrivano a colpi e flette, l'alluminio lo piega, l'ho già vista questa cosa qua. A differenza della 510, per dire, delle antenne VEU che hanno una flessione allucinante, l'ho vista a 45 gradi, io la mia non si è mai spezzata, però quella essendo in alluminio prima o poi te la piega, capito? Quindi vedi un po' tu. Ho provato a autocostruirmi un affilare tipo rando. Mi ha fatto il ballo, avevo un toroide chissà da quanto tempo ce l'avevo lì e ho copiato uno schemino che ho trovato su internet, però non la posso svolgere bene, non ho spazio, l'ho ripiegato in 3-4 volte, non va bene, no? Ripiego qualcosina ma non va bene, no? Ci vuole spazio, non è, non è così, no? Io tieni conto che ho quasi 30 metri di lunghezza di tetto e il dipolo degli 80 ho dovuto piegare i bracci, farli praticamente la curva e farli girare a 45 gradi come mi hanno consigliato, che è una cannonata, perché ci vogliono 50 metri di tetto per stendere a voi invertita un dipolo degli 80 metri, capito? Mentre quello che ho, che già tribanda, non ci sono problemi, capito? Spazio ci vuole qua, alle antenne ci vuole spazio, non c'è niente da fare, è inutile che andiamo a girare la frittata, o hai spazio o se no antenne non è buibonino. Quindi posso mettere giusto 3-4 verticali, per quelle problemi. Posso mettere i tasselli, come hai detto tu, col chimico, una qui, una là, insomma, ne posso mettere bene. Ma niente, di poli non fanno. Ho provato, ho trovato un bel disegno, sai quelle random fatte a scaletta, ma magari se riesco a farti lasciare, invece... L'ho dovuto ripiegare in tre e ci sono cagato, non c'è. Vabbè, devo scappare qua. Devo andare a prendere i nipotini. Magari ci si sente più tardi. Ciao Claudio, piacere averti ascoltato, dai. Devo aspettare una telefonata di Antonello per vedere se quella roba là. Ok, poi già ti aggiorna lui o ti aggiorno io. Ciao. Ciao. Ebbecla. Ammelo Garie. Mi hai mirato fuori con il cane. Ma qua sentivo quel bip, non potevo entrare che stavo facendo cosa. Chi era? È Gianni che non stavo uscendo. Gianni lo profeta? No, doppio. Questa... Sicuramente c'è un problemino al microfono, adesso lo sta controllando. Ho capito. Aggiugavit. E mi sono a casa, parlamo. Che stavo facendo roba stamattina qua. Mi sa che mi porto la doccia, veloce, dai. Non c'è nessuno? No, stavo parlando con Claudio di Porto Torres, però no, non si è tolto nessuno, solo Gianni e Bu. Dunque, qua e qua cuomane. Ehi, tata lì. Ehi, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh, chi c'è ancora a casa? La mamma. Non c'è andato, marito? Ah, oggi non sto facendo roba qua. Sono da fare in casa oggi. Oh, ah, da fare c'è avevi. Già va bene, già va bene. E pulizia, là, là. Sistemato il mobile che si è comprato nuovo. E due cassettiere e mamma, io ho sistemato. Sì, già va bene. Purtroppo non ce la fa, bisogna aiutarla, quello che riesco a fare. Sì, allora, l'importante è che ci faccia qualcosa, che problema c'è? Sono comunque su quali che va in casa. Ah, sento un uccello, è matto, non ha migliorato. Sì, mi è facendo un gatto, a me altro che... No, qua, là, non mi voglio rovinare, perché se mi rovino veramente, ora non sto scherzando, mi rovino proprio. Era bravo, Lugarie, era bravo, sopporta, sopporta, che altro mi gioco già potendo io. Se uno non, se tu a uno non te lo inculi, cosa c'è? Perché ti devi cercare? Punto di domanda. Quella è la facoltà un po' di tutti, capito? È proprio quello il problema, non ti cercano, non cerca nessuno, ti cercano. Vabbè, è così, funziona così, non fa niente. Funziona così lui. Non è una cosa normale. Ma poi sta uscendo, sì. 9:20 radio 5, perfetto. È così, vabbè, dai. Come dici tu? Lasciamo passare poi. Io beh. Noi per esempio in bocca e mezzo, lo cerco entrato in nuda, figurati. Quante volte ho sopportato, poi alla fine ci manca, la cena fuori. Quando c'è la coscienza pulita già va bene. Beh, alla fine sì. Alla fine sì. Non riconosco come dice, definitiva così. E anche direttamente. Direttamente. Andava. Uia, ancora noi. Vieni buscia. Vediamo doppio. Hai finito? E invece che sta facendo cosa? Adesso sto aspettando una chiamata da un amico che deve darmi una cosa. Vediamo se mi chiama, cazzo, speriamo non debba scendere io, non devo uscire io. No, Gian, non vi sei, la partenza è buona e poi muori. Hai capito che cos'è, Gian? Cazzo, non mi fare aprire il mio, porca miseria. Hai capito? L'hai aperto il microfono. Che ti abbiati, io gli ho messo CRC, gli ho messo l'olio, gli ho messo lo spray per contatti, niente da fare. Quando tu spingi il PTT, se stai attento, c'è una puntina che è il fine corsa del coso di plastica, quell'affare di plastica tocca la battuta, non te lo fa spingere, vai tranquillo che è quello lì, cazzo l'ho fatto io, sembra che non ci sia niente, ma già è quello lì a futtibini, è un affarino rotondo, piccolino mi, e cazzo piccolo, che praticamente è attaccato dove c'è il coso grande del PTT, capito? Quello lì lo devi tagliare, limare e tu vedi che diventa più morbido il PTT e non ti fa più quel difetto. Infatti parte bene e poi esce male. E ne avevi più 5, così era il mio. Se n'è accorto lui. Mi ha detto appunto che si va bene e poi mancavo del radio. Mi ha detto lo spruzza lo spray, l'ho aperto, spruzzato, tutto, niente. Non volava, poi gli tocca, ma poi mi dici tu, raggio dovrà da brì, attaccato alla radio, schiacciavo normale e non usciva. Lo tenevo premuto forte e usciva, ma i denti vengono ripicciti, ho visto che questo coso di plastica, piccolo, non mi faceva fare tutto il fine corsa. E anche questo qua me l'ho cambiato io delle MB4, e avevo un altro, e quando lo schiacciavo non andava a fine corsa. Cioè qua così mi aspetta, adesso non esco, guardami. Aspetta, vediamo un po' se lo fa adesso, no. Comunque vabbè, non faceva il fine corsa, là. sì, ha ragione Claudio, comunque nelle prova smontata e schiaccia il PTT fino alla fine e vedi che esce. No, se no c'hai i carboncini consumati. No, no, non è il carboncino, no, è quello lì, è un difetto dell'MB più 5, è un difetto dell'MB più 5. Vai tranquillo, è quello lì. Guarda, l'ho scoperto, stando attento già lo vedi. Se tu non schiacci la fase di pratica del PTT, lo schiacci manualmente, il microfono funziona, quando lo metti quello lì si inciola, perché c'è questo pezzettino di plastica leggero leggero che non ti fa schiacciare tutto il PTT e quindi non ti fa uscire. A domani. Hai capito già? Sì, io ci ho capito, ma non ho più gana, va, mi puoi sdraiare 5 minuti a rilassarli. Se no sto tutta la sera attaccato al microfono e mi ascillo il buco. Una stronzata già, ti ho detto, una stronzata, cazzo, non mi fare aprire il mio, fatti la fotografia, cazzo, mi rompo le palle. L'ho fatto io, è una stronzata, è un cogio, cazzo, sembra una vettina di plastica, piccola, piccola, piccola, che è da una parte e dall'altra. Quello dalla parte proprio dove schiacci il PTT, quello lì ti blocca la corsa della molla e non ti fa uscire. E adesso domani mattina lo apro con calma e lo vedo, dai. Non la giugana, va Claudio, di nuovo di aprirlo e tutto gatto, anche perché è un po' oleoso come l'ho passato il cerice mi brutto tutto. Non è sforzare di niente, intanto non le fa nulla, l'ho sforzato di tutto io. Di tutto, gli ho messo anche l'olio singere, quello leggero leggero, nella mollettina, nuda, infatti è diventato morbido, morbido, morbido, lo fai proprio col dittino, lo fai, prima era duro, capito? Prima era duro, va bene, vai, domani te lo fai, avanti di lui. Ehi, ehi, KK, già stavo uscendo, adesso bene già, lo so, sono dei microfoni un po' difettosi. Ripeto, io al mio gli ho cambiato tutto il PTT, tutto proprio nuovo, gli ho messo, vabbè, usato, però un altro, dai, perché il mio ormai ce l'ha spezzata con una specie di plastichetta che va a agganciare sul PTT in plastica. Cioè, su quanto grande, c'è il piolino, uno lì non arrivava, lo facevo a fine corsa. Poi l'avevo incollato, un po' modificato, ma qualche volta non uscivo. Allora mi sono deciso e gliel'ho cambiato. Bella quella foto, Lu, quando l'hai fatta adesso? No, l'ho fatta io, una vicina di casa. Bella, bella, tramonto. Tramonto. Sì, tramonto quando ce ne voglia. Infatti. Cazzo, gli mando un messaggio a Flipper. Dove c'è ancora Biatende gli anni? Ha detto che c'era Biatende 2 anni. Ehi, ehi, oggi non lo sento per niente. Avevo impegnato. Casino, Mi sta aspettando dei preventivi qua del dentista, se vediamo. Secondo come va me ne parto fuori, c'è da venire in luce, Sassari. Tanto vorrei farlo anch'io, ma non posso farlo. Voglio di evadere, di uscire da questo cazzo di Sardegna di merda. E soprattutto in questa città di merda. Vabbè. Ma solo che siamo messi con questo Covid, siamo messi male. Quindi andi, dove vai? Dove vai? Già, tu immaginati, già dall'anno scorso ci avevo un'offerta per un villaggio a Santa Teresa e non sono potuto andare. Capito? A fare manutenzione al depuratore per 3 mesi, che poi il direttore è un mio carissimo amico. E non sono potuto andare. Dove vuoi andare? Claudio, io stavo pensando una cosa, io l'altra volta gli ho messo il cerice e si è ripreso, se avessi avuto quel problema tuo non si sarebbe ripreso manco l'altra volta. No, si riprende, anche il mio è uscito per un po', se ti ricordi. Come si asciuga, non le dai il consenso. È quello, è un difetto dell'MB più 5 già, è un difetto, vai tranquillo, non mica non succede niente, non si vede neanche, è una vittina piccola piccola, presente ce l'hai, però è plastificata, non è una vittina, tipo una vittina, no, la testa di una vittina piccola, quello io gliel'ho tagliato con la tronchegia, poi con la limetta delle unghie l'ho limato, l'ho fatto piatto piatto, non si vede, assolutamente, non succede niente, però le dà il consenso a andare più avanti possibile il PTT. Ho capito, ma quindi devo arrivare alla molla. Deve arrivare alla fine della molla, non ci arriva, se tu lo apri ti sto dicendo stai attento, invece di puzzare, fai come ti dici Dio, non serve a nulla. Io l'ho sforzato di tutto come mi hai detto tu, gli ho messo anche l'olio nella molla. Una volta che ho tolto quel quell'impurità è un po' di plastica in me, deve essere come l'hanno costruito, non lo so, capito, una cosa del genere. C'è questa bavatura mi, che non era il consenso arrivare alla fine. Non sai quanto è morbido adesso, funziona una cannonata, anche il lock è molto più morbido, prima era un bel tutto, deve essere che questa bavatura toccava, capito? Ma tu per arrivarci ci hanno smontato quelle borchette che ti sono farati. Le devo tutte smontare anche quelle, mi girano belle palle. No, già, non le smonti quelle, non le smonti, te lo giri al senso contrario. Una volta che ne togli il tappo, ne togli la batteria, si vede questo piolino, si vede. È praticamente le battute del PTT di plastica. Devi togliere una di quelle battute lì, te ne accorgi, e il PTT arriva fino in fondo e non te lo fa più, vai tranquillo, l'ho fatto al mio. Poi vabbè, domani lo apriamo, lo vediamo, dai. Luca, buonasera, avanti. Prova a sfruttare un po' di WD-40, ce l'hai? Quello l'ho sfruttato. A me era successo, se l'ha ripreso. A me era successo con il microfono del Mobicom, però, quello verdolino, piccolino. Se l'ha ripreso anche questo dopo che l'ho sfruttato l'altra volta, ma questa volta non si riesce a cavarne fili, io dovrei ancora agire, boh. Questo non te lo so dire, già è purtroppo, sennò se è un difetto, ma il microfono nuovo, No, l'ho usato già, no? Ho capito, non lo so. Sono l'unica a procurare un altro e cambiare, l'altro va bene anche quello delle MB più 4, ma sono uguali. Adesso la capsula non penso che sia. La capsula l'avevo cambiata, l'avevo messo quella verde per pompare di più, l'avevo fatto il punticello. E se andava bene, domani già le cambiamo piedi, prima o poi già ce la faccio, io sono duro. Da te è che sei a punta di gasino, ma sarei venuto adesso, te l'avrei fatto davanti. Ci vuole 5 minuti, ti ho detto già, è una bavatura di plastica mi, che è attaccata all'affare di plastica del PTT. Se tu ne togli quella lì, no? Io gli ho dato una stretta con la tronchesina e poi l'ho limato con la lima delle unghie, perché no? È piccolina, capito? Lo fai, lo limi e lo ripiatti, vai tranquillo che non te lo fa più. Ci va più a fondo perché non c'è quel tacchettino lì, ci va più a fondo. Esatto, perché non capivo che cosa era, ho detto boh, circuito, a parte fatto con il mio nuovo, l'avevo comprato quest'estate, da Fusaro, capito? E non c'aveva manco connettore, me l'ha messo Luca, il connettore nuovo, capito? Perché non c'era il connettore, anche preso il bagaglio, comunque non c'era, gli ho fatto mettere nuovo. E da poco ho iniziato a fare questa cosa, deve essere questa bavatura, l'ho tolta ed è perfetto, va, perfettissimo. Lo uso, qui ce l'ho qua davanti, è quello che uso con l'Elbex, è perfetto. Adesso lo provo con un altro apparato, lo provo col Galaxy a vedere se lo fa lo stesso. Prova a vedere se lo fa lo stesso. No, ma è l'apparecchio, ma è il microfono, perché esce, capito, qua? Esce, poco a poco ma esce, non lo so. E io anche il mio era così, stavo parlando proprio con Gianni. Praticamente mi calava la radio, capito? Mi calava la radio. Schiacciavo più forte, pressavo più forte il PTT, però rischi di romperlo, e usciva. Ogni talora c'è un falso contatto qua, l'ho aperto. Gianni mi ha detto, sfrutta le CRC, c'è il raggio passato di tutto. Ha funzionato per un pochino, poi non ha funzionato più. Ho capito. Claudio. Hola, attenzione Claudio. Sta uscendo già. Uscendo sta. Sì, allora il baracchino. Non si adegua al baracchino, dici. Il baracchino era l'altro. È sempre funzionato nell'altro baracchino. Aspetta, è il 3009. Prova il 3009 con l'altro microfono. Il 3009 lo stavo già usando con un altro microfono, mi avete sentito con la static. Lo so già. Se non passo contatto, cosa ne so? Comunque stai uscendo. La radio è buona, è forte, è tranquilla. Sì, perfetta. Come va meglio in questo apparato oppure nell'altro? Non c'è molta differenza, c'è bene sia qua che nell'altro. Adesso lo riproviamo là, forse doveva solo fare... doveva agire, dai. Vediamo un po', non è possibile, aspetta. Via. Ehi, ehi, dai, che devo fare una telefonata, ci sentiamo dopo, ragazzi, già sono qua, ok? Ehi, yeah, fai, fai. No, posso, problema. Sì. Prova. Prova. 1, 2, 3. Esci e poi sparisci. Ah, no, sparisci del tutto, che è meglio. Io. Zitto. Sei sparito, Gianni. Gianni, provo a vedere, non so se sentirti anche in altri canali però, Cosa c'è? Cosa c'è? Non ce n'è, non ce n'è, buonasera. Ciao Tino, ciao. Vabbè. I beni sono chi ce li ha. Io ce li avevo, me li ho mangiati. Ma ne hai fatto qualcosa di buono. E se no, no, non si pappa. Va bene, è uscito ci da lavoro. No, oggi eravamo curato, oggi ero qua a casa facendo l'IVA. Abbiamo deciso di non lavorare oggi, però ho lavorato più di quanto lavoro quando sono a lavoro. E infatti io stamattina volevo andare in banca, invece mi hanno detto domani mattina, oggi no, praticamente non hanno travagliato, volevo lasciare il feriero. Il mio direttore. Claudio! Lui. Hai sentito? Col Galaxy non fa il difetto, lo fa solo col 3009. Aia. Eh già, quello è il difetto che faceva a me. Io ho riscontrato quello. Altre radio da provare non ne avevo, le ho tolto, il resto che funziona, sia con l'Ebex, con l'Inoiti, con l'DAC. Funziona con tutti. E quindi non lo so come mai fa quel difetto lì. Boh, aveva sempre funzionato col 3009, tranquillo, boh. Vabbè, dai, uso questo, buonanotte. Lo metto da parte, se ne ha bisogno, ci colga, si va bene. Attacco al Galaxy già. No, non posso attaccarlo perché tra un ripiano e l'altro non c'è lo spazio per metterlo. Invece l'altro che c'ho c'ha il braccio pieghevole, lo posso abbassare, capito? Ah, troppo. Vabbè, comunque, a me è quello lì che faceva. Con l'effetto lì, gli ho tolto quella bavatura e non me l'ha più fatto. Vai Tino. Non so di cosa state parlando, quindi non so come interagire. Stiamo parlando del mio MB5 montato sul 3009, mi stava facendo il difetto che spariva di modulazione. Montato sul Galaxy non me lo fa. Non so, non saprei darti consiglio, perché sia in uno che nell'altro nei miei apparati parlo, funziona senza toccare niente. Magari forse è troppo aperto di modulazione, non lo so. Ma questo qua va bene il microfono, questo qua è la static. Sì. E allora lascio questo, ce l'abbia le luci. Cosa me ne frega? Io chi se lo compra le BB più 4, se sono le BB più 5, sto vendendo. No, va bene. No, io uno in parcheggio, ma non lo do, perché ne ho due più 5 e uno più 4. Ed è accoppiata con un altro baracchino, quindi se quando trovi il compromesso giusto non sei lì a cambiarlo. Ma infatti, ma io preferisco sempre quelli da palmo, tiro, sono fatto così, mi piacciono più quelli da palmo perché ho i cori con i tiro e i microfoni e quelli da palmo vanno meglio. Vanno meglio quando ti corichi. Io quando faccio radio sono seduto, quindi non mi interessa il palmare, perché mi è scomodo. Infatti dipende sempre dalle esigenze che uno ha. Io mi rilasso, mi goccio e parlo. vabbè, ognuno ha le sue esigenze. No, io ho sempre avuto la radio. Ma tu Tino c'hai i carrelli praticamente, c'hai le scrivanie con le ruote lì nel salone, dove sei tu? Mi aveva mandato una foto, non ho capito se nel salone, dove sei? Sì, in sala, però ho la scrivania dove c'è il PC, diciamo. Poi avevo una mensola, avevo il 440, tutta la linea, lavorino l'ho spostata e ci ho messo un carrello con le ruote dove lo metto a 90 gradi con la scrivania, lo avvicino e con la parte sinistra posso maneggiare i microfoni e con la parte destra vado con il PC. No, invece io frontale al muro c'ho da una parte c'ho tutta la base con la radio, poi giro la sedia e c'ho il computer e un'altra scrivania, capito? Proprio una scrivania per computer, dai. Devo togliere perché devo fare spazio, lì c'è un divanetto che mi si sta rovinando, ce l'ho sui mansarda, ci metto un divanetto per guardare la TV. Va bene, e quindi già cosa pensi che sia? Un problema del 3009? Ma non lo so, perché ha sempre funzionato il 3009, ha sempre funzionato bene. E adesso comunque ho fatto la prova, l'ho provato nel Galaxy, funziona bene. Mi ha detto Luca che era anche forte la radio. Va bene, dice. Qua va bene, non lo fa il difetto, lo fa solo la strappa. Probabilmente ho il mic gain, ho provato a abbassarlo leggermente, niente da fare. Non strappa, cazzo, ma non diciamo che sì, non strappa. Inizi bene, con la bella modulazione, poi si abbassa il radio. E lo stesso difetto che faceva a me, ma secondo me non è così. Col Galaxy Mare c'è il PTT con l'aggancio più corto, quel 3009 ha l'aggancio del PTT più lungo e ti fa quel difetto. E come ti dico io non ti guarda nulla, tu limali quella bavatura e poi lo riattacchi al 3009 e vedrai che la radio funziona. Domani mattina lo controllo, perché non vi si va laggiù, si sa cosa, è strano che non ha parecchio funziona nell'altro. Può essere come ti sto dicendo io, vai tranquillo, può darsi che il Galaxy abbia l'aggancio del PTT più corto, ok, interviene prima, mentre quello del 3009 interviene dopo, essendo bloccato non ti dà il consenso, non ti guarda nulla, mica una cazzata da giudizio, mettogli il coperchio, togli la batteria e le elimini l'impurità, è un piolino di plastica piccolo piccolo piccolo. Io mangio molto le piccite per limarlo, lo porti a zero, al piano del pulsante del PTT, no, quello grigio, ok, e tu vedrai che non te lo vasi più, lo attacchi al 3009 e funziona, sono convintissimo al 100%. Sarebbe quel piolino che spinge quella piastrina che poi fa andare avanti la molla, così è. E si conferma, quello lì, lo devi limare, quello lì. E poi se non ci arriva la portante, è la bigliolucci. No, cazzo, non è quello che spinge la molla, si intende, non è quello che spinge la molla, è quello che praticamente mantiene in la, che dà la spinta, cioè il fine corsa della spinta del coso di plastica, del PTT, chiamalo mentre vuoi, sa fare grigio. Se tu stai attento alle due estremità, a destra e a sinistra, c'ha due pomellini, piccoli, piccoli, piccoli, che sembrano due bavature. Io ho limato quelle e il PTT arriva sino a fondo, prima non arrivava, ok? E ti dico la stessa cosa perché col DAC non me lo faceva, l'ho attaccato all'Elbex e me lo faceva. Va bene, allora domani mattina ci provo, vediamo un po' là, se vuoi ci faccio zero lampo, buonanotte. Se hai problemi te lo faccio io davanti a te, ci vuole 5 minuti, il tempo che tu prepari il caffè ti faccio il microfono, riattacchi e sta funzionando, sono convinto. Boh, vabbè. Problemi non ne ho a smontarlo, l'ho smontato 100 volte, gli ho fatto anche il ponte, tutto gatto, ha cambiato il filo. Ma allora che problemi ti stai creando? Ma è perché ne ha due, capito, di queste due bavature. Devi toglierne una, proprio quella che spinge, quella che arriva al fine corsa, che tocca praticamente alla cassa, ti tocca alla cassa di ferro, al piantone del microfono, ti tocca quella lì, e non ti fa andare avanti il PTT. Sì, domani mattina lo controllo, va. Prova, perché a me col DAC non me lo faceva, infatti io me ne stanzi, te ne sei accorto tu, quando l'ho attaccato all'Elbex, e Luca mi ha fatto il coso, mi ha messo il connettore nuovo, A4, l'ho attaccato all'Elbex, ma non stai uscendo, toccate come non stai uscendo, e scia, sarà la batteria, toccavo la batteria e niente, l'ho riprovato e mi ha detto la stessa cosa, allora l'ho aperto, ci ho messo lo spray, e nulla, non fa zero ma pesci. Allora tenendolo aperto mi sono accorto che praticamente non faceva la corsa tutta intera, piastra del circuito di preamplificazione. K. E andare avanti Tino. Sì, avevo sentito una cosa del genere, che se toccavo la cassa stava, però sinceramente i miei non, grazie a Dio, non hanno mai fatto queste cose qua, se chi li manca qualche cosina per far sì che non toccava, io non, sinceramente non li ho mai aperti, non mi è mai interessato aprirli. Poi a quanto mi ricordo io, anni fa me l'aveva preparato Antonio, il microfono, Antonio Riserva, e quindi sa solo lui cosa ha fatto per non difettare, ecco. Sì, tu c'hai quelli nuovi o quelli vecchi? Perché io ne ho due vecchi e non l'hanno mai fatto. Quello nuovo me l'ha fatto, l'ho comprato nuovo e mi ha fatto questo difetto. Ma io ho uno storico quando avevo la stazione a casa la Feroce, che è il più 5, quello con i pomellini grigi e attorno sopra giallo, è lo smitter nero. Mentre invece l'altro è con lo smitter giallo, i pomellini grigi e sopra sono nero. Esatto, quelli sono i modelli nuovi, quella norma c'è. Io ne ho due con i pomelli gialli, che i pomelli li ho cambiati. Ho messo due pomelli neri del radio, capito? Che entravano benissimo, anche non mi piace. E l'altro invece è quello nuovo, con i pomelli grigi, no? E la striscia nera sopra. Quello mi ha fatto quel difetto, quello è norma c'è, quello è nuovo. Mentre gli altri due non me l'hanno fatto, l'ultimo che ho comprato me l'ha fatto. Quindi già, capito? Vorrà se sia un difetto di fabbrica, non lo so. Oh, claro. Oh. Ma c'è il PMR acceso? Sì, è acceso, ma il volume è basso. Aspetta, sollevo il volume. Sì, guarda un attimino, poi una prova. Vai. Ehi, cosa c'è? Buttiamolo via e basta, non c'è problema. Perché buttarlo via? Guarda, quel microfono lì io gli ho fatto di tutto e di più. Gli ho cambiato la capsula, gli ho cambiato il cavo, gli ho messo quello morbido. Poi cosa gli ho fatto? Il ponticello per uscire più forte. E niente. Cioè, è tutto gatto elaborato. No, vabbè, io ti ripeto, a me me l'hanno preparato a suo tempo e va bene con per il radio, capito? Poi vabbè, se ci sono da cambiare connessioni, questo da vedere, però va bene. No, ma chi ce l'avevo, sino l'altro giorno uscivo con quel microfono, con la radio che non va bene adesso. Cioè uscivo sempre con quel microfono lì, andava alla grande, mi dicevano tutti che era una bomba, che uscivo ben forte. Ma sul 2009? E allora? Va bene, quando esce bene, perché mai nessuno ti ha detto niente, anzi io ti ho detto che era una cannonata, lasciarlo lì. Però tu fai quel lavoro lì, vedrai che lo puoi riattaccare al 2009, perché ti ripeto, ci sono radio che hanno il PTT che interviene prima e ci sono radio che hanno il PTT che interviene dopo, quindi può darsi pure che il 2009 è un po' più ritardato rispetto al Galaxy, il sistema del PTT, e quindi se non le dai tutto il fine corsa dell'aggancio, non si sgancia, mi capito? Ehi. La fesseria ti ho detto già, se hai problemi che non lo vedi ma lo dici, non ce n'è problema, io l'ho fatto e ho il risultato perfetto, anzi più morbido rispetto anche agli altri, nel senso aggancia prima, il lock prima era un po' più duro, capito? Forse che c'era questa bavatura in mezzo alle balle. K, andate e vediamo domani, lo facciamo. Se mi capita stanotte, quando mi sono guardato in televisione me lo faccio. No, non venendo la televisione io mica maglieggio. Vai Tino. Ehi, cla, c'è il cavo mezzo spezzato, ecco perché stavo arrivando senza segnale. Aspetta, ti faccio il PL. Ah, così sempre impasta nulla, qualcosa c'era, Lucio, prima arrivavi bene, adesso arrivi lo stesso, ma senza segnale vuol dire che c'è qualche problema. Io non ho detto bocca e bocca, perché ho fatto di l'antenna sul tetto, quindi non c'ho niente da toccare. K. Sto utilizzando il 50T. Sì, è bello. Io sto andando col 440, col 140 e MC60. No, io sto usando sempre questo adesso, poi quando voglio giocare attacco l'altro. Sì, la stessa cosa di c'ho l'Olbex con linea sempre lì attaccato, pronto. Quando voglio fare due passaggi faccio francese. No, non avevo, sta qua, da quando l'abbiamo regolata l'ho lasciata sempre così. No, oh, ma anch'io. Vabbè, questa la uso poco, la sto usando oggi, se no di solito uso il 4,40. Ho 4,30, poi 4,30 ce l'ho in 40 metri, e quindi ho detto che con molto questa. Già va bene. A voglia, ma gioia. Ma Gianni, dai, riprendi che ti voglio sentire. Ah, stavi utilizzando il 48, ne avevi parlato anche, avevi parlato di un filtro che l'hai messo tu, un filtro, cos'era, che filtro era? Per l'esplatter. Esatto, no, c'era, non l'avevo inserito e basta, non l'avevo mai toccato, e abbassando quello lì non sento più splatter. Sono tutti cosiddetti, ce l'ho anche io, cioè ce l'avevo anche io, praticamente quando li fanno le mettono questo attenuatore, non so come lo chiama Gigi Vulcano, comunque è un filtrino che riduce molto gli splatter, i rumori, eccetera, capito? È comodo, quando lo dice vabbè. Ma comunque già esce bene quello di Gianni, cioè. Ha provato ieri una bomba, è una cannonata, esce molto molto bene, veramente molto molto bene, microfono normale, senza essere molto molto spinto, esce molto bene, bella radio, bel segnale. Io non ho spazio, a noi vale mettere radio su radio, no, avrei pensato anche quello, ogni tanto avrei fatto una prova anche con quello. Io già vendo lo spazio, sì. Ne ho due in vendita e una l'ho già data anche due li ho già date. Due sono in vendita e due li ho già date. Quindi se vendo spazio a tutto andare, tanto. Ma se vi a nuda avere un sacco di roba senza poterla usare pure, o senza usarla, sempre spenta. Infatti io non è che ne ho tante, io ne ho cinque, non è che ne ho tantissime. Uso le solite tre e le altre sono conservate, non perché ho due 48 anche, però no, non ce li ho attaccati, ecco. No, ma ho tolto anche l'inoit, l'ho messo dentro l'armadio, tanto era in chivi, non l'ho dratto. Fa un po' tolgo anche il DAC, però non lo voglio togliere perché ogni tanto lo accendo e lo uso, capito? Perché ci ho messo le valvole nuove e quindi ogni tanto lo voglio accendere. Gli altri no, io sto parlando di radio, capito, radio grandi, avevo quattro basi VU, 820H l'ho fatto fuori, 275H può darsi pure che sia già mezzo andato, e poi ho il 780 in vendita e il 756 Raycon in vendita. Quindi due sono già partite, due speriamo che partano, se no si va bene in culo, rimani in chivi. Claudio, oh. Adesso sono con l'MB più 5 e col Galaxy, come va la radio? Va bene. Va benissimo con il Galaxy e con le altre. E ma vedi che sgancia? Sgancia, poi non hai molta modificazione a fare il mio. Infatti non ce la sto facendo, non mettere mai così, adesso l'ho messo, va, adesso è fisso. Guarda se sgancia, 1, 2, 3, prova, guarda, ola, 1, 2, 3. No, sgancia, duro è agganciare il lock. No, devi trovare il punto giusto, dai, però non è buonissimo. E diciamo che un po' di difficoltà ce l'hai, non è come quello, come il Kenwood, che l'MC60 che entra su. Se tu mi vuoi, quella bavatura vedrai, io col mio lo muovo appena e si aggancia subito. Prima mi fa ganzelli, grudito, troppo, poi per sganciarlo è un casino, proprio diventa una cannonata se fai quel lavoro già. Cosa stavi dicendo ti? Ho detto, per il mio, sì, esce bene, è chiara la modulazione, però non è amplificata per me a modo giusto. Sicuramente vuole registrato, boh, non lo so. Cioè, esce bene, è chiara la modulazione, è forte, ma non spinge come i classici P5. No, io si attacco lo mio, è l'anteghizza. Funziona molto bene la mia, c'è la capsula, l'avevo comprato a Gigi Vulcano, già modificato tutto, ce l'ho collegato sull'airbag, se funziona molto bene. Era lontano, Tino, guarda adesso come va. No, non c'entra niente, io quando uso 275 mio sono a braccio steso, non è che... Eh già, non è spinta spinta, più spinta col 3009. Chi è volentrato? L'abbordante è a 9.50, chi è? Robert, tu sei? Poco fa che c'è che stava, forse mai non esce, anche qua era forte. Ehi vabbè, qua a 9.50 arrivano in pochi. Roberto, Antonello e Fabrizio, non è che sono altri. Non ci sono molti giochi da fare, no? Guarda, sono... il più che mi arriva è Marco Condo 9.35. Gli altri sono tutti 9.20, 9.25. Capito? Sì, no, ho sollevato l'antenna io, Hai notato qualche differenza col K, sempre solita potenza, qualcosa in meno, qualcosa in più, numero un du, arrangia di du. Ma vuoi un mio parere? Anzi, ti mando una fotografia, un video di quando moduli, prima eri 9.20, adesso sei 9.18. Addirittura, vabbè. Dipende dai watt che uso sempre, adesso sono con 140, l'ho acceso poco fa, sono 10, 15, 20 watt e 30 modulati. Quando uso il 440 c'è sempre 40 watt di portante e 70-80 modulati. Io ti sto dicendo quello che vedo, ma ti ripeto, prima eri 9.20 fisso, con picchi positivi a 9.22, una pacchetta in più, adesso sei arrivi a 9.18 modulati. Vabbè, non fa niente, no, tu sei sempre uguale, mentre gli altri sono saliti di qualche punto S, 4 metri, due elementi in più ci sono, l'ho messo dove c'era la direttiva, capito? Non è che ho fatto molti spostamenti, però c'ho molto più QRM, molto più... va bene. Oia, è bello Garie. Mi sembra anche strano. Gianni, dovevi stare dicendo qualcosa? Ho detto spegnete i baracchini, dai! Gianni, qua arrivi forte, sei 9.30, 9.35 anche. Ma questo qui è l'Alan 48, quello che non uso mai, quasi mai. Cos'è Tino? Non ho capito Luca, cos'hai detto? Ma sai che c'è Luca stava parlando in PMR, non c'è un presunto. No, cos'hai detto tu a Gianni? Ho detto che Gianni è 9.30, 9.35 volati. Cazzo, vai attaccando, io ho detto che è 9.35. Gianni con l'Alan 48 mi arriva, quanto è Marco Condo? Fatti il conto. Beh, infatti. Ma mi sembra strano che ciò abbia perso anziché guadagnare, capito quello che volevo dire io? Alzando l'antenna mi era difficile pensarlo anche. Ma sei l'unico che sta dicendo, per carità, io rispetto la tua idea, la tua radio, il tuo smitter, non è un problema, non è un problema. Tu stai usando il 450, sei a LED, non lo so, però sei il primo che me lo dice, perché da Giulio ho guadagnato 2 punti S. Da Marco prima attenuato ero 5, adesso attenuato.